Tenga presente che noi abbiamo avuto vari incontri con, addirittura col Consiglio Superiore, con i vari procuratori del Meridione d'Italia, dove certo. abbiamo affrontato tutti insieme questo problema. Ecco, ma a Napoli lei quanti ne ha censiti? O meglio, non tanto lei, ma quanti ne avete da buttare giù? Guardi, noi siamo nell'ordine di migliaia, ma decine di migliaia, perché personalmente io coordino la struttura demolizione della Procura Generale con il procuratore generale attuale, il dottor Mastrominico, che è il nostro supervisore, e noi coordiniamo 393 paesi della Campania. Mamma mia, e quante case avete abbattuto finora? Case, immobili, capannoni, comunque strutture non autorizzate? Sì, ma tenga presente che siamo intorno tra demolizioni nostre e autodemolizioni sollecitate, siamo intorno ai 300. Ecco, ma una curiosità, le trovate le ditte che abbattono oppure fate come Vitello alla Mezza Terme, che è stato costretto a chiamare il genio militare dell'esercito da Palermo, perché ovviamente nessuno poi ha il coraggio di mettersi contro queste famiglie, queste cosche calabresi piuttosto che clan campani? Ma guardi, noi siamo riusciti a stilare un protocollo che ci permette di selezionare le ditte. Non solo, ma una volta che abbiamo l'elenco di queste ditte, le mandiamo al prefetto per la informativa e la liberatoria antimafia. È certo, perché magari... Dal punto di vista sostanziale, però, attenzione, non formale, le ditte che sono iscritte alla Camera di Commercio hanno tutte quante il certificato certo. antimafia. Certo, quindi lei mi vuole dire che insomma andate un pochettino a ravanare un po' più nel profondo, in profondità, sì. per vedere se queste effettivamente sono mafiose o meno, insomma. Sì, ma certo. tenga presente, comunque il problema non è solamente mafioso camorristico. Certo. Qui c'è di tutto, qui abbiamo di fronte la criminalità comune, sì. possiamo avere anche il preside della scuola. Che, indubbiamente. Ovviamente con questa illegalità diffusa si è costruita la casa e al limite detiene anche legalmente un fucile che quando è il momento ce lo punta contro.